Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori. Un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 667. Grandi novità discografiche, solo novità discografiche per questa bella puntata che parte subito con una vecchia conoscenza. Un grande musicista, un grande trombonista che risponde al nome di Wayne Wallace. Wayne Wallace con il suo Latin Jazz Quintet, formato da Wayne Wallace al trombone e il quale cura anche gli arrangiamenti, David Bilow al basso, Colin Douglas alla batteria e alle percussioni, Murray Lowe al pianoforte e Michael Spiro alle congas, al bongo, alle percussioni, anche lui agli arrangiamenti. E poi ci sono vari special guest che si susseguono nelle varie tracce. E stasera noi da questo CD intitolato Intercambio, che è l'ultimo CD di Wayne Wallace, ci potremo ascoltare una bella timbasso. Buon ascolto quindi con il Wayne Wallace Latin Jazz Quintet. Bene, ci siamo ascoltati il Wayne Wallace Latin Jazz Quintetto. Siamo partiti con questa musica latin che è in piena armonia con l'estate, con i balli all'aperto, con la danza, con le atmosfere che solitamente così ci avvolgono nell'estate. Il gruppo è un gruppo ormai consolidato, capeggiato da questo ottimo trombonista che ha spaziato nella sua già lunga carriera anche nella sperimentazione, poi ha deciso di impiegare le sue potenzialità con una sorta di ritorno impreziosito dalle sue grandi esperienze anche a queste musiche più tradizionali, più mainstream in questo caso nel settore del Latin, e il suo apporto è sicuramente molto importante. Per la Patois Records ha registrato questo CD intitolato Intercambio, veramente con arrangiamenti molto interessanti, molto carini, realizzati con grande bravura tecnica. Ricordo la formazione: Wayne Wallace al trombone e gli arrangiamenti, David Below al basso, Colin Douglas alla batteria, Murray Lowe al pianoforte, Michael Spiro alle congas, bongas, percussioni e arrangiamenti. Tutte personalità di grande esperienza per questo Latin Jazz Quintetto capeggiato da Wayne Wallace. E adesso, come sapete, è una delle mie caratteristiche quelle dell'intervallo dell'altalena, per meglio dire, tra la musica che ci viene dall'estero e quella italiana. Il buon jazz italiano, che io tengo sempre in grande considerazione, si esprime sia con musicisti di grande esperienza sia con i giovani che io seguo in modo particolare. Bene, questa è una formazione di giovani veramente molto bravi, si chiamano Cristiano Pomante Quartet. Cristiano Pomante al vibrafono e marimba, Marco Giongrandi alla chitarra, Michele Tacchi al basso elettrico, Alessandro Rossi alla batteria. Veramente quattro giovani molto preparati, ma non solo molto preparati, perché essere molto preparati con le scuole che abbiamo oggi in Italia, con gli insegnanti, con tutta un'opportunità di stage, di comunque di occasioni per poter crescere tecnicamente, non è una cosa impossibile. Ma al di là della grande bravura tecnica di questi quattro giovani, ci sono anche delle idee, ci sono sicuramente delle intuizioni musicali in questo CD intitolato La Storia e pubblicato per l'Alpha Projects, veramente interessanti. Vi voglio far ascoltare una composizione originale di Cristiano Pomante intitolata Maybe. Buon ascolto quindi con il Cristiano Pomante Quartet. Thank you. la musica di Cristiano Pomante. Cristiano Pomante Quartet, che vede protagonisti Cristiano Pomante, leader del gruppo al vibrafono, al marimba, Marco John Grandi alla chitarra, Michele Tacchi al basso, Alessandro Rossi alla batteria. Ci siamo ascoltati Maybe, una composizione originale di Cristiano Pomante, che rappresenta forse più di altri pezzi, ma insomma sicuramente anche altri pezzi sono sempre specchio dell'identità generale del gruppo e delle composizioni di Cristiano Pomante, ma rappresenta per me forse ancora più di altri questa chiave di lettura della musica di Cristiano Pomante, che è delicatezza, leggerezza, grande sensibilità, ma nello stesso tempo anche carattere. C'è anche una certa impronta nelle composizioni di Cristiano Pomante. E c'è sempre eleganza, raffinatezza, ma nello stesso tempo c'è anche musica di pancia in quello che si ascolta in Cristiano Pomante, per cui c'è un equilibrio tra le varie forze del cuore e della mente che affascina sicuramente nella musica di questo giovane artista. Impreziosisce la pubblicazione discografica la presenza veramente qualificata di questo quartetto, perché ogni musicista, avete sentito gli assoli alla chitarra di Marco John Grandi, ma anche la sezione ritmica curata da Michele Tacchi e Alessandro Rossi, è sempre veramente come dire rispettosa, non copre mai, è sempre calibrata, nello stesso tempo è anche molto presente, quindi c'è in ogni membro di questo gruppo un equilibrio che caratterizza le sonorità di questo di questa formazione. Cristiano Pomante Quartet, il CD intitolato La Storia, pubblicato dall'Alpha Music, Alpha Projects. E adesso andiamo avanti. Dopo il Cristiano Pomante, cosa facciamo? Facciamo un salto all'estero di nuovo, proprio per questa altalena musicale tra jazz, buon jazz italiano, e il jazz che ci arriva d'oltreoceano. Third Reel in questo caso non ci arriva d'oltreoceano, perché ci arriva dalla ICM, che come ben sapete è una delle più grandi case discografiche del mondo, ma è europea, tedesca, quindi ci arriva dall'Europa. Third Reel è il gruppo, Many More Days è il titolo del CD. Il gruppo, il trio, è formato da Nicolas Masson al sax, tenore e soprano, ma suona anche i clarinetti, Roberto Pianca alla chitarra, Emanuele Maniscalco alla batteria e pianoforte. Il CD è molto bello sul piano delle sonorità, c'è un'eleganza, una raffinatezza notevole. Noi da questo CD ci potremo ascoltare proprio il pezzo che dà il titolo all'album, Many More Days, che è una composizione originale di Nicolas Masson, il sassofonista del trio. Buon ascolto. Thank you. Bene, questa era la musica di Third Reel, il trio formato da Nicolas Masson, Roberto Pianca, Emanuele Maniscalco. Il pezzo che ci siamo ascoltati era intitolato Many More Days, una composizione originale del sassofonista del gruppo Nicolas Masson, che dà anche il titolo al CD pubblicato dalla ECM, un pezzo che rivela le grandi proprietà tecniche di questi tre musicisti, in particolare la grande sicurezza al sax di Nicolas Masson, che riesce a vivere dei momenti di grande intimità e anche dei voli particolari che ci fanno vivere delle belle emozioni. Un CD chiaramente in pieno stile ECM, con delle atmosfere molto pacate, molto eleganti, raffinate, tutto da ascoltare in quasi in religiosità. Bene, lasciamo Third Reel e andiamo avanti, ritornando ancora una volta in Italia con un grande trombettista italiano, Giacomo Uncini. Giacomo Uncini in quartet ha realizzato un bel CD intitolato Indian Summer, pubblicato dalla Nota Mi Records. Il quartetto è formato appunto da Giacomo Uncini, il leader del gruppo, alla tromba e flicorno, Giulio Carmassi al pianoforte e alle tastiere, e poi Carlo Petruzzellis alla chitarra, Gian Ludovico Carmenati al basso e Massimo Manzi alla batteria. Tutti ottimi musicisti conosciuti non solo a livello nazionale. Il CD è veramente molto interessante, con delle felici intuizioni compositive e delle belle performance strumentali che confermano la validità di questi ottimi musicisti. Stasera ci ascolteremo una composizione originale di Giacomo Uncini intitolata Dropout. Buon ascolto quindi con il Giacomo Uncini Quartet dal CD Indian Summer. Thank you. Beh, la musica di Giacomo Uncini ci ricorda quanto i nostri musicisti siano tra i più interessanti a livello internazionale. Abbiamo un buon jazz italiano veramente straordinario, di grandi professionisti, a volte un po', come dire, sottovalutati, a volte anche un po' dimenticati nei festival. Io l'ho già ridetto più volte, magari si ascoltano sempre un po' gli stessi nomi, mentre ci si potrebbe ricordare di tante altre personalità meritevoli di grande rispetto e di un ascolto più vasto di quello che solitamente hanno. Giacomo Uncini con il suo quartet ci ha fatto ascoltare una sua composizione originale intitolata Dropout, inserita in questo bel CD pubblicato da Notami intitolato Indian Summer. Ricordo la formazione: Giacomo Uncini, tromba e flicorno, Giulio Carmassi al pianoforte e tastiere, Carlo Petruzzellis alla chitarra, Gian Ludovico Carmenati al basso, Massimo Manzi alla batteria. Una formazione veramente di tutto rispetto, con delle belle composizioni originali, alcune di Giacomo Uncini, alcune di Carlo Petruzzellis, e poi c'è anche una bella interpretazione di un pezzo di Carla Bley. Il CD è veramente godibile, molto bello, in chiave mainstream ma totalmente inserito in un'atmosfera contemporanea, per cui si sente la musica dell'oggi pur con il grande rispetto del passato. Indian Summer, Giacomo Uncini, quartet. E adesso andiamoci ad ascoltare un gruppo che viene d'oltreoceano, si chiama Hypercolor. Hypercolor è anche il titolo del CD. Loro hanno realizzato questa pubblicazione discografica in trio. Il chitarrista, stavo leggendo, siccome è scritto in inglese guitarist, e allora stavo leggendo il guitarrista. Il chitarrista Ejal Molls, insieme al bassista James Ilgenfritz e al batterista Lucas Ligeti, danno vita a questo trio che fino a poco tempo fa non conoscevo e che mi ha particolarmente convinto. Ascoltiamoci quindi questa loro composizione originale intitolata Far Connection, Hypercolor. Buon ascolto. Bene, questa era la musica del gruppo Hypercolor, che è un trio, come vi ho detto prima, formato dal chitarrista Ejal Maoz, dal bassista James Ilgenfritz e dal batterista Lucas Ligeti. Ci siamo ascoltati una loro composizione originale intitolata Far Connection, che è tratta dall'ultimo CD che porta il nome del trio stesso, Hypercolor. Un gruppo, come avete sentito, con una sezione ritmica molto forte, molto presente, quindi grande energia, grande potenza, molto bravo anche il chitarrista Ejal Maoz con i suoi assoli ricchi di adrenalina, un chitarrista che viene tenuto molto in considerazione. Hypercolor dal CD che porta il nome del gruppo, Hypercolor. E adesso ritorniamo ancora una volta in Italia e ci ritorniamo con un'ottima formazione, anche in questo caso musicisti italiani veramente di grande levatura, di grande capacità tecnica, ma anche di straordinaria sensibilità. Il gruppo è formato da Alessandro Florio, leader del gruppo, alla chitarra, Pat Bianchi alle tastiere e all'organo e poi Carmen Intorre alla batteria. In più in questo disco c'è anche il mio caro amico Gegé Telesforo come special guest alla voce in un pezzo del progetto discografico. Il CD è veramente molto bello, sicuramente una produzione interessante che ricorda, come dicevo prima, quanti giovani e anche meno giovani musicisti italiani siano veramente a dei livelli internazionali di qualità e che potrebbero avere un'occasione ancora maggiore di quella che hanno per potersi esprimere e poter far conoscere a livello mondiale qual è il livello della nostra musica. Il nostro lavoro, quello della mia trasmissione, è quello di poter fare, pur nel nostro estremo piccolo, il possibile per diffondere la buona musica, anche quella che spesso è un pochino troppo nell'ombra. Il pezzo che vi vado a presentare stasera è una composizione originale di Alessandro Florio, uno dei pezzi che mi ha maggiormente colpito di questo CD, intitolato Ring Shout. Buon ascolto quindi con Alessandro Florio, Pat Bianchi e Carmen Intorre. Thank you. E ci siamo ascoltati la musica di Alessandro Florio, Alessandro Florio, leader di questo trio formato da Alessandro Florio alla chitarra, Pat Bianchi alle tastiere, l'organo, Carmen Intore alla batteria. Avete sentito questa bellissima Ring Shout, una composizione originale di Alessandro Florio che esprime totalmente la grande capacità, la grande proprietà di linguaggio, la grande capacità tecnica di questi musicisti, a volte anche proprio estrosi e al limite del virtuosismo, in altri casi veramente capaci di esprimere poesia, di esprimere la grande sensibilità, quindi di ricordarci che non è che vivono il virtuosismo fine a se stesso per sentirsi dire bravi e per strappare l'applauso, ma sempre in funzione di una di un bisogno espressivo del pezzo, quindi con una maturità veramente apprezzabile. CD da ascoltare con grande attenzione, nel quale si esprime veramente grande qualità. Il CD è intitolato Roots Interchange, è veramente molto bello. Ed ora proseguiamo con un nome di rilievo del jazz italiano, Paolo Damiani, che insieme a Rosario Giuliani al sax alto e soprano, Daniele Tittarelli al flauto ma suona anche l'alto e il soprano, Marco Bardoscia al contrabbasso e Michele Rabbia alle percussioni. Il gruppo, come vedete, è un gruppo di all stars, di personaggi di primissimo rilievo del jazz nazionale e non solo nazionale, perché alcuni di loro sono anche conosciuti e rispettati moltissimo all'estero. E da questo bel CD di grande qualità noi ci ascolteremo una composizione originale di Paolo Damiani intitolata Sketch 7. Buon ascolto. Thank you. Questo pezzo era intitolato Sketch 7 ed era una composizione originale di Paolo Damiani tratta dal CD Seven Sketches in Music pubblicato da Parco della Musica Records. Paolo Damiani Double Trio, si tratta di una formazione che vede impegnati, oltre a Paolo Damiani al violoncello e al contrabbasso, Rosario Giuliani al sax alto e al sax soprano, Daniele Tittarelli al flauto, sax alto e sax soprano, Marco Bardoscia al contrabbasso basso e Michele Rabbia alle percussioni e agli effetti elettronici. Si alternano Rosario Giuliani e Daniele Tittarelli in assoli che sono, come avete sentito, di altissimo valore, sono dei voli pindarici, delle chicche meravigliose di musica, ma tutto il gruppo è di grandiosa levatura e quindi in ogni momento dell'ascolto si può godere della bellezza che ci offre questa formazione. Sketch 7 appunto era la composizione originale che ci siamo ascoltati, il titolo del CD è Seven Sketches in Music pubblicato da Parco della Musica Records. E adesso chiudiamo con un particolarissimo CD pubblicato dalla Irma Records intitolato L'aperitivo italiano, passione napoletana. Si tratta di canzoni napoletane, le più famose, le più popolari, rivisitate in uno stile lounge. E stasera vi voglio proporre Torero, rivisitata con questi particolari arrangiamenti da Banda Brasileira. Si tratta di una pubblicazione discografica che prevede due CD, veramente uno più bello dell'altro, gradevolissimi tutti i pezzi e le interpretazioni dei vari artisti che si susseguono. Adesso ci ascolteremo Banda Brasileira in Torero. Buon ascolto. Giù una letta e mamma te minaccia e padre te s'arraccia, te lo fanno ci ragazzi sti fumetti guardate dentro specchio, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood e custa scuso in uno studio a chiudere Vittore si piazza la capo su sombrero, dice che si spagnolo e non piove, qui nascerina sacca per ballare, mescolando volere o ciacciachi o un brugliatore. Gusti basetta Sud America, della corta corta o caso un cielo stretto io riccio l'ambrotto te rira gente a tutto a porta ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe per le strade di Hollywood e innamorato tu e non te lo più Vittore di la capo stu sombrero non si spagnolo e non si cavallero sti nacchero tu non ne sai suona e sti nacchero tu che ne fa belle mamma Torero sti basetta Sud America Sud America bolero, casa mio, cia cia cia, tore. Custi basetta sudamerica, con musica e avalia, gamma sempre di che. Torero, torero, olè, torero. Custi basetta sudamerica, e questa era la famosissima Torero, scritta da Renato Carosone, interpretata da banda brasilera per questo bellissimo doppio CD intitolato L'Aperitivo Italiano molto gradevole, Passione Napoletana, pubblicato dalla Irma Records, con il quale si chiude anche questa puntata, ricca puntata di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci, da Anima Jazz.